Che è avanti. Ciao, sono aspetta che passo la televisione, sennò si sente troppo. Provati. No, stavo abbassando la televisione. Va bene. Guarda, sono un po' così. Ti devo far provare, cioè devo farti sentire un'altra radio. Poi metto l'antenna un attimo, Prova. Prova. Come metto la radio? Forte, abbassa leggermente, un pelino. Devo abbassare. Ma un pelo vitti. Ecco qua. 1, 2, 3, prova il microfono. Lasciala così, dai, sennò non ti capisco. Aspetta, se alzo il watt, mi dici. Guarda se va in saturazione. Leggermente sì, ma poca roba, No, è giusto per capire, guarda un pochino, sto sempre diminuendo, Sempre uguale, però fa un leggero rumore quando schiaccio il PTT. Sì, vabbè, quello è il microfono. Guarda, l'ho ancora abbassato. Fai un passaggio più lungo. Vedi un pochino. 1, 2, 3, 4. Se vuoi abbasso ancora un pochino di parte. Se non è saturo la lascio così. Per me va bene così, Perché sto accoppiando dei microfoni con delle radio, quindi se non mi rimane un microfono solo, solitario, e non mi piace. Va bene, allora gli lasciamo questa qua. E l'altra invece è più squillante come colorazione. L'altra che mi hai fatto sentire stasera, anzi poco fa. Ecco, questa qua, cosa ti dice? Allora, questa è più chiara, diciamo, ma di poco, in confronto all'altra. L'altra lo stesso già è squillante, però è leggermente più cupa come modulazione. Ma è troppo amplificata questa, va bene. Per me va bene così. Poi ripeto, sto usando sempre il 48 e c'ha la cassa di carta. Sì, vabbè, utilizzo questa che non voglio far andare perché è fatta un po' di tempo ferma. Però vedo questi, vabbè, devo andare sul 20 che c'è tra una persona che mi deve dare dei controlli a distanza. Se vuoi venire lì è lo stesso, Allora, spostiamoci al 20. D'accordo. Mi sento bello pulito, diciamo. Poi non lo so. Sì, vabbè, magari perché la timbrica del radio è più forte del disturbo che c'è e quindi riesco a passarlo per quello. Va bene, no, perché quel mio QRM è intorno ai 2, quasi 3, dai. Aspetta che accendo l'altro a vedere se lo passo del tutto. Ehi, approva. Vabbè, qua non lo sento per niente, qua è sordo, prova a vedere tu. Guarda, un po' 1, 2, 3, 4 e 5. Ma qua non lo sento niente addirittura. Qua, vabbè, sordo l'apparato. Ma non è che quell'altro apparato magari che ti crea, che sta prendendo mondezza magari? No, ce l'avevo anche negli altri, quindi ce l'avevo anche Franco stasera. Magari qualcosa che ti disturba lì vicino a te. No, non lo so, non credo. E questa è una radio differente dall'altra? Questa la preferisco di più, di tutti e due, La preferisci di più? Per le mie orecchie, per me questa è... la preferisco di più di tutte le altre due che mi hai fatto sentire. Sono tre radio differenti, questa è 48. Questa è 48. Le altre sono un po' più superiori, però magari non si abbinano bene come questa. Gava. Poi ripeto, bisogna sempre a sentirti con una cassa seria. Va bene, però questa, ripeto, è bella chiara. Vabbè, l'altra la posso amplificare ancora di più, ragazzo. Come amplificazione ci sei, però come diciamo amplificazione, roba del genere, capito? Questa aspetta un attimino, metto un altro addirittura 1048 super modificato, scheda posizionamento watt, ecco corto doppio modulatore BTP malattie, 270 euro, ma stiamo scherzando. Yes, te li stanno tirando a fianco adesso. Se le fanno pagare, ma poi vabbè. Ciao, buonanotte. Diciamo che dipende dalla fiducia, ecco. Sì, perché poi non magari non ti si abbina bene con la tua timbrica, quindi devi rispedirlo, ma infatti le giuste correzioni, è un casino, L'unica cosa è provare. Io guardo molte volte, sono un po' rompiscatole, perché prima di comprare una cosa preferirei provarla, giustamente, però devo chiedere a chi ce l'ha, ecco, per poter provare. Una volta provata e sei sicuro che va bene, allora la compro. Ma ti ripeto, comprare una cosa e poi averla lì non va bene, non fa bene entrambi, diciamo. Giustamente è così. E va bene, ma io c'avevo il 140, ma sono pure pentito di averlo dato alla fine. E infatti adesso mi toccherà riprendermene un altro. Quella è l'ultima radio, quella è la prima che ho avuto del pianeta Kingus. Adesso vediamo già cosa riusciamo a trovare di buono, anche un 440, perché quello c'ha già l'accordatore interno, capito? Accordatore interno, poi ci vuole un buon alimentatore. Anche vabbè, per i scusati. Eia. È così. Cosa vuol dire? Sì, ce n'è uno, ma è troppo caro, secondo me. Forse non ho capito se dalla radio o dalla linea completa, però. E ne volevo a 4,50, ma è troppo. Io ho visto qualcosa intorno alle 4,50 come prezzo, però c'era pure un annuncio dove ti dava MC60, mi sembra, e poi non so che cosa, e come prezzo era abbordabile, però è tutto da vedere. Allora, io credo che ti dia, ma non lo so, se ti dà la linea completa, che sarebbe l'alimentatore, la radio, SP430, che sembra la cassa eterna, l'MC43, l'MC60, 450 euro è un prezzo buono, ma si dà solo la radio e il microfono? Vabbè, così no, però ho fatto pure un po' di giri anche nei vari siti, da chi vende proprio negozi dove vendono queste radio usate qua. Intorno alle meno di 400 euro non ne trovi, Ma cosa intendi? Solo radio e microfono? Solo radio ti danno, radio e microfono originale, e basta. Vediamo. Perché vabbè, poi c'è 140 che lo trovi anche intorno alle 200-250 euro adesso. Ma guarda, io sinceramente non so, dipende da che uso devi fare, perché io l'ho preso perché a me piace, però sinceramente vabbè, faccio un po' di ascolto in altre bande, e quello sì, non faccio attività perché non sono abilitato per l'attività. Però se dovessi usare solo il 27 è sprecato. Sì, quello sì, ma io sto prendendo pure la patente, spero di riuscirci adesso a maggio a scendere. A maggio, vediamo. Se ce la faccio, se no scendo a quella di ottobre. Bisogna essere preparati. E questo lo sto avendo. Addirittura ho trovato un MP4 vecchissimo. Un reperto bellico. No, ma è vecchio sì, però è tenuto benissimo, cioè per gli anni che ha non è eccessivamente graffiato, perché sai, molte volte quando hai gli apparati che non usi più, prendi, li metti nelle scatoloni, volontariamente si graffiano, capito? Non è che questo sembra non so prossimamente comunque. Di questi, questi affari, tra virgolette, e poi bisogna avere come funziona, se c'è tutto in a posto oppure ha qualche problema. C'è sempre il punto di interrogativo dietro. Allora, diciamo la verità che questi che girano a Sassari bisogna conoscere di trovare, così almeno sai dove andare a bussare la porta. Quello è. Io mi è rimasto ancora un più 5 sopra. Però per sempre. Non mi ricordo, gli attacchi c'erano di Midland che attacchi aveva. Come metto lui lì nel 48, forse che va bene. Io indico sempre di scenderlo. Noi se non lo ricordo lo provo. E vediamo, se non ci manca la capsula, mi sembra che era completo. Io sto utilizzando. Già va bene. Forse invece ho messo il microfono che stavo usando nell'altro. C'è qualche differenza che si sente. Va bene. Se no bisogna iniziare a tirargli il collo anche a questo. Guarda, non c'è più l'afflusso di un tempo. Prima io ti parlo, va bene. 88, 89, anni 90. Crescevano le antenne come i funghi. Io ho iniziato all'età di 12 anni, 92 mi sa, 93. Sì, prima c'era molto più movimento. E bene o male sempre quei due o tre canali trovi sempre ruote, sempre gente, fare chiacchiere. Altri tempi. Altra generazione, altre cose, altri divertimenti, altro tutto. Però mi sa che siamo entrati quasi tutti adesso, o manca ancora qualcuno, boh. Sì, ce ne manca di gente. Però alla fin fine siamo sempre i soliti. Guarda, solo alla tua voce, quello che mi ricordo io, almeno c'è una decina solo alla tua voce. L'afflusso maggiore proveniva tutto da lì prima. Poi via via a spargersi per tutta Sassari. Bello. Sì, poi c'è una bancaria anche, Ottava. Insomma. Già ce n'era di bella gente e vabbè, poi hanno preso altre strade, altri hobby magari. No, vabbè, poi è subentrato il telefonino, poi i social e quant'altro, quindi è logico che la radio è andata a morire piano piano, ma i miei appassionati c'erano sempre due o tre radio conservate, non so mai che poi mi viene il momento la voglia. Sì, perché poi è così. No, non ti passa mai. È una cosa, è una passione che ti prende e te la tieni. Anche se non c'è nessuno, però la tentazione di accendere c'è sempre. Ma io lo stesso, un po' volte ho avuto qualche mese anche fermo, cioè spento, tra virgolette, magari andavo, accendevo un modulato perché magari non si metteva il tempo, però non ho mai deciso di venderlo, perché tanto se non lo vendo non lo ricompro. E adesso piano piano sto nuovamente riallestendo un pochino, ma non mi voglio riempire di cose, tanto poi ne utilizzo solo una, non è che a me piacciono tutte le cose, dalla prima all'ultima, perché da poi quelle che sono stazione base vecchie ancora di più, perché sai come sono riportate, però insomma, riesco a senza riempirmi come un uovo, ecco. Cava. E così, no, prima adesso sono andato a Verne, mi sembra una ventina ne avrà avuto in radio io. No, io così tante no, sinceramente no, ma 5 sì, sempre ho avuto poi alcune le regalate, ho regalato il Texas che tempo fa, anni fa, che tutt'oggi magari avrei avuto di avere, avevo anche le Galaxy, Saturnecco, il tutto, che ancora oggi lo vorrei riprendere, sono cose che magari sono radio vecchie che ti rimangono così, poi magari le senti con delle modifiche e ti piacciono ancora di più, quello tutte normali, ecco. Come il Texas, per dire, era normale, l'ho regalato normale, senza fare modifiche di niente, poi sì, il classico aiutino, ma niente di che. Perché poi così, dici vabbè la regalo, non ne faccio niente, via, non la sto usando. Poi invece, dopo un po' di tempo, torni indietro e ti viene il pallino di comprartela. Allora, poi basta che ti trovi con due o tre amici che anche loro usavano e allora ritorno alla Puglia. Hai visto io? Ho iniziato a far scaldare il vecchio 48, quell'altro modificato. Scaldo, provo, riprovo, sistema. Da lì ho cominciato, ci ho procurato l'antenna, ho riportato non solo quello, anche l'altro 48, di tutto. E così, vabbè. La passione non manca mai, Non muore mai, anzi. Meglio, è una passione sana, già fa bene. Ah sì, quello sì. Cava. Va bene ti, dai. Che adesso me ne vo a nanna. Vabbè. Ti. Non stavi uscendo? No, non è che non sto uscendo, sono filmato io. Perché stavo guardando se si è disturbato. Eccolo qua. Ma stai facendo TV hai? No, è un po' di subito un'altra radio. Andava. Ho detto prima che adesso me la chiudo e vo a nanna, che per oggi fine le trasmissioni. Non c'è problema. Ci mancherebbe altro. No, io domani riposo, quindi mi trattengo un attimino al PC e poi vediamo cosa riesce fuori. Va bene, ci sentiamo, tante cose belle. Una buona nottata, ci sentiamo per domani. Ehi a te, dai. Tanto noi quella lì l'ho parcheggiata e quindi sto più in radio. Io sono dopo domani di riposo sino a sabato. Va bene, meglio così almeno. Così sei più pimpante. Sono i capitano alle 12 ore di domenica notte. Va bene, dai ti. Ci ascoltiamo domani, dai, buon proseguimento e buon tutto, buon 144. Cosa fai? Che turni di notte? Sì, la domenica notte ogni tanto mi tocca, 12 ore. Di cosa ti occupi se sono solo indiscreto? Ambulanza. Ah, da poco è entrato mio nipote, però non so che ambulanza, No, io sono quelli gialli e blu. Ah, capito, va bene. Ma cosa è successo io non lo so, sinceramente, però è, come si dice, è volontario. Io lo stesso. Però ogni tanto facciamo i turni. E toccano anche quelli da fare. Non lo so, magari lavora anche con te. Graziano si chiama. No, negativo. Negativo, noi siamo dietro alla brigata. Va bene, d'accordo, dai. Buonanotte ancora. Ehi a te, dai. Buon proseguimento, ci ascoltiamo a domani, dai. Ciao, buonanotte. Ciao. Dino, ci sei, attenzione muscolo. Ciao Marco. Guarda, ho finito adesso resta di lavorare, stampare i biglietti, il check-in e cose varie. Al PC adesso è stato quasi un aspetto, guarda, questo è quello che dice Marco. Non sembri neanche tu, lo sai, la voce è completamente diversa. La voce sta strana. Ma con quel più 4 è? Sì, sì, molto amplificata, però non è ti dà dei toni di modulazione con diversi dalla tua voce. Lo so, vabbè, anche un po' l'ascolto qua cambia. Qui stavo provando con Walter, ma non va in USB e in USB. Forse c'è il cursore un po' che vuole lubrificato, credo. È da verificare se è quello il problema. Io qua sì, tutto a posto, stazionaria, perché bisogna sempre controllare. Perfetto. Se vuoi provare è comodo, faccio un passaggio e proviamo. No, io devo fare una cosa invece, devo lasciare questo microfono oppure il normale, mi dici quello che meglio, magari così almeno l'utilizzo così. Questo è l'amplificato. Adesso se vuoi cambio e metto il normale. No, prova a abbassarlo un po' questo qua. Ecco, abbassato un pochino, guarda un po' se vuoi così, se no lo abbasso ancora un po'. Ma abbasso ancora un altro pochino. Allora, guarda un po' così se va bene. Poc'anzi era così se non mi sbaglio, Guarda, così va bene, lascialo così, così è da combattimento, molto alta ma comprensibile. Quando la incrementi come hai fatto prima, rimane sempre, non va in saturazione, però cambia c'è un'alterazione delle frequenze medio-alte, capito? La modulazione invece così adesso come l'hai ridotta è la tua voce molto amplificata ma corretta. Ok, no, sai perché l'ho alzata Marco? Perché in banda non ho, Walter non mi sentivo, ho provato a fare l'ultimo passaggio magari con il microfono alto, prendendo un po' se andava, ma senza alcun risultato. Guarda, così è perfetta, ottima, così è un'ottima modulazione. Se mi dicevi che era 4,40 ci avrei creduto tranquillamente, per darti un'idea. Figurati, no, bella, mi piace un sacco questa bella. Aspetta che ti faccio sentire invece il Lincoln, perché l'abbiamo sistemato un pochino, era quello che andava in saturazione, non so se ti ricordi. Sì, mi ricordo. Bene, dai, ascolto il passaggio e dopodiché scendo a cenare, perché praticamente stavo lavorando sino adesso e non ho ancora neanche mangiato. Ok, dai, commuto, poi vai, dai. Vai. Mi devo ricordare sempre di cambiare canale, perché questo era un altro canale. Questo è il President con le più 5 però, Va meglio rispetto a come andava l'altra volta. C'è sempre qualche problemino, ma va molto meglio, insomma. Vabbè, ma dico, non va in saturazione ora, No, c'è uno strano clippare, però prova leggermente ad abbassare, se puoi regolare il guadagno del microfono dalla radio. Sì, quando piglio il TTT fa quel flip, ho capito. Sì, ma c'è anche un piccolo aggancio, cioè non ha una modulazione corretta, lineare, perfetta come il Rose, c'ha un po' come una sorta di piccolo aggancio di saturazione, capito? Un po' come faceva anche con l'altro microfono. No, così sì, quasi ti si è abbassato notevolmente, però si avverte, abbassando la voce, la quantità di amplificazione, si evidenzia molto di più quel problema che ti ho detto. C'è, sicuramente c'è qualche componente che non sta lavorando correttamente, sembrerebbe proprio così. Lì ci vuole l'ingegnere per capire quale condensatore, se c'è un condensatore in perdita o qualche cosina che non sta lavorando correttamente. Ho capito, guarda, adesso questo invece è con le più 4. E sai cosa sembra? Ha quell'effetto tipico di quando tu attacchi un amplificatore lineare con tantissimi effetti, quel tipo di effetto lì, come che la modulazione un po' viene agganciata in qualche modo, non è fluida, non è lineare, non è chiara. Anche con questo microfono? Sì, con questo migliora notevolmente, però c'è sempre, porta sempre appresso quel problema lì. Ho capito. L'ultima prova, Marco, e poi ti lascio, così almeno hai fatto un po' il tutto. Vai. E dove sei andato a finire? Sei quasi scomparso il segnale. Aspetta un attimino, perché sto usando l'altro, normale, dai. Ottimo, amplificato, bene. Guarda, Marco, si è migliorato? E sui 9 più 30 la modulazione è amplificata, va bene questo. Adesso non sono sparito il segnale, insomma, l'ho aiutato. Si vede, questo va bene. Va bene anche la modulazione, va bene tutto. Però non era male neanche il Royce, eh? Lo so, infatti adesso tanto lo lascio acceso, vediamo un pochino se ricarica qualche cosa, se cambia. E se forse si va in banda. No, questa era una copiata che ho fatto perché andava molto in saturazione, e non so, dimmelo tu. No, va bene, questo sta andando bene. È il segnale fortissimo, ti ho detto, la modulazione OK, direi promosso. Lui se prova a lasciarla acceso, guarda, potrebbe anche avvenire così, che magari si riprende, è capitato anche a me tante volte queste radio, le riaccendi e c'è qualcosa che non va, poi le lasci accese ore, io lascio acceso e vado, ritorno, lascio acceso tutta la notte, domani, e poi la provi e funziona. Anche il com è stato una volta me l'aveva fatto, era rimasto fermo per un bel po' di tempo, poi sono andato a accenderlo, nulla, sembrava morto, invece poi si è ripreso. Io infatti cerco di farli funzionare, per quello che anche a volte gli avevo detto che bisognava fare un lavoro fatto bene, con l'alimentazione a buona parte di quelle che gli interessano praticamente, non quelle che non te ne frega nulla, i veicolari, quelli piccoli così che non ti hanno fatto nulla, ma quelli belli, cioè quelli importanti, quelli alimentarli in maniera tale che ogni tanto li lasci accesi e loro scaldano, funzionano e rimangono in vita, se no muoiono. Effettivamente, guarda, lì sul tavolo, ho detto beh, adesso la porto via così la faccio girare, ma tu prendila, poi te la riporto, ho detto non ci mancherebbe altro, però almeno mi tolgo la soddisfazione di utilizzarla, anche perché non la deve mi piace. No, è molto bella quella lì, è quella con i pulsanti neri o con i pulsanti bianchi? No, questa è con i pulsanti bianchi, però non riesco, qualche volta mi sta facendo che aveva anche il orologio qua, non riesco a vederlo, vedo solo il canale. Allora, perché Royce lo fanno, quello a tre strumenti lo fanno, o quei tre strumenti a destra o quei tre strumenti a sinistra, quei pulsanti neri, quella che è a destra, quei pulsanti bianchi, quelli che sono a sinistra. La radio in linea di massima è più o meno sempre la stessa. Adesso non mi ricordo, bisogna riprendere a guardare un po' la storia di queste radio, quale prima e quale dopo. Comunque vanno bene entrambi i modelli. Ma non lo so, non mi ricordo se l'orologio lì è digitale oppure se è meccanico con i numeri, con le rotelle che girano. No, è digitale. E allora quello lì è il modello successivo, io invece quello mio, ne ho due, sono sempre quelli con l'orologio meccanico, con sempre tre strumenti, a destra però, mentre quello lì ha i tasti bianchi e i pulsanti e gli strumenti a sinistra, l'orologio digitale, quello che uscì con display verde, no? No, i numeri sono rossi, tra le 20 e rosso, mentre invece i tre strumenti sono verdi, sì. I tre strumenti sono verdi. tubi. Se quello lì è alimentato con, mi pare di ricordare che se quello lì è alimentato a 13,8, l'orologio digitale non si accende, mi pare, se non ricordo male. Per far funzionare l'orologio digitale bisogna alimentarlo con, se la versione, così come credo, americana, versione 110, quando gli dai 110 rimane acceso l'orologio digitale, perché la radio rimane accesa, il digitale la puoi programmare, rimane acceso l'orologio e la radio rimane spenta. Se invece non l'alimenti con il 110 ma col 13,8, l'orologio rimane disattivato. No, questo è diventato a corrente, quindi non è a 12 volt, però è schiacciando i tastini che sono piccolini non cambia niente, a parte che va in via e basta. Ma quella lì è stata modificata allora, perché quella radio a 110, a 220 non esiste, è americana a 110, capito? Lì ci devono avere messo mano e allora hanno messo dentro l'alimentatore, modificato l'alimentatore, eccetera eccetera, perché come molto spesso capitava, perché quelle radio quando venivano importate poi venivano modificate. In versione originale sono a 110 e hanno normalmente questa prerogativa che quando sono con l'alimentatore, con l'alimentazione dirette, lo strumento rimane acceso o spento a tuo piacimento, puoi programmarlo, rimane acceso o spento, e la radio ovviamente puoi programmare l'accensione programmata o eccetera eccetera.